sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Arriva la mia gara. Entro in acqua sapendo di essere l'agnello sacrificale, ma voglio vendere cara la pelle. Suona la sirena, parto a razzo, spingo a più non posso, ma la sirena continua a suonare all'impazzata. Mi chiedo, cosa vorrà dire? Sono Stefano, sono nato 42 anni fa a Monza. Vivo a Montale Rangone, un paesino vicino a Modena. Sono sposato con Maria Antonietta e ho due bellissimi figli maschi. Nella vita faccio il chirurgo e le mie più grandi passioni sono la mia famiglia, la moto e il mio lavoro. E proprio a proposito di moto, come ci racconta Stefano nell'apertura, nell'intro del suo racconto, proprio a proposito di moto, prima di cominciare a raccontare la sua storia, che invece non riguarda le moto, ma riguarda una piscina, una vasca, l'infanzia e anche le false partenze, abbiamo una notizia da darvi, perché martedì 25 novembre alle ore 16, cioè l'ora tipica della diretta di Voi Siete Qui, per martedì 25 intendo quindi martedì prossimo, in diretta dallo store, dal negozio della Pirelli di Corso Venezia 1 a Milano, se avete voglia di venire a sentire una storia che parla di motociclette e soprattutto di godervi per quanto possibile il programma in diretta e vedere le belle facce di tutti noi, di me, di Paolino Corleoni, di Tiziano Bonini e attenzione, a grandissima sorpresa, Miriam Lucchetti. No, stavo già dando la notizia incredibile, invece le è stato appena comunicato che Miriam martedì prossimo non ci sarà, ma avremo una foto con noi di lei, avremo una foto di Miriam Lucchetti, forse un cartonato, probabilmente un cartonato a grandezza naturale, ripeto, dal Pirelli Store di Milano, di Corso Venezia 1 a Milano, quindi in supercentro, in piazza San Babila, andiamo in diretta dal vivo, quindi potete godervi come se foste qui, insomma, come se foste in radio a vedere quello che succede, però al Pirelli Store di Corso Venezia. Per fare ciò dovete semplicemente andare sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui. Adesso in questo momento c'è, vabbè, la mia facciazza, sotto c'è la faccia di Stefano con i suoi due bambini, foto che vi racconto più tardi, e sulla sinistra, eccolo qua, Pirelli, Voi Siete Qui, la live, c'è un piccolo form da compilare e voilà, ovviamente è gratuito, non ci sono tantissimi posti a sedere, quindi se avete voglia magari cominciate a iscrivervi. L'appuntamento è per martedì prossimo alle 16 in diretta, Corso Venezia numero 1 alla Pirelli. Buongiorno a tutti, sono le 16:11, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. E oggi raccontiamo, come avete sentito, la storia di Stefano. Quando lui parla della sirena che parte e che lui continua invece a far finta di non sentire, parla di una falsa partenza. 349-238-6666, il profilo Facebook del programma, Voi Siete Qui Radio 24, il profilo Twitter del programma, Voi Siete Qui R24. Se e quando vi è capitato di fare una falsa partenza, ma proprio che l'avete cannata completamente, cioè c'era bip, partito, no aspetta, non è ancora andata, ma anche sul lavoro, oppure anche con una ragazza che sai quando ti avvicini e cerchi di dare un bacio, lei, no, aspetta, ancora no, ecco, valgono tutte quelle false partenze lì, mi è venuto un brivido sulla schiena proprio, ma sai quelle cose che ti avvicini, lei si gira, ehi, 349-238-6666, dimenticate quell'immagine orribile, siete molto giovani, siete dei ragazzini, siete in una piscina e c'è una gara di nuoto. Io vado in piscina per cercare di tenermi un po' in forma, ma realmente lo detesto. È una noia mortale. Mi sembra di essere un criceto che gira sulla ruota nella sua gabbia mentre faccio avanti e indietro. L'unica cosa buona è che puoi pensare per fare passare il tempo, ma attenzione a non perdere il conto delle vasche. Vado a nuotare 2 o 3 volte alla settimana, non di più, non ci riesco. Io faccio, ogni volta che vado a nuotare faccio 100 vasche, entro 100 vasche secche. L'altro giorno, mentre nuotavo, mi sono ricordato dell'unica gara di nuoto che ho disputato nella mia vita e della relativa figuraccia. E ho realizzato che quel lontano episodio della mia adolescenza mi ha mostrato quale sarebbe stata la mia posizione nella vita. Avevo 12 o 13 anni, era il mio primo anno, vivevo in un paese di nome Vignola, a 25 km da Modena, e quell'anno la scuola ci portava in piscina invece che in palestra per le ore di educazione fisica. A fine anno il professore ci disse che organizzavano una piccola gara fra gli studenti della scuola, e visto che si svolgeva in orario scolastico, era un ottimo modo per saltare 5 ore di lezione. Così mi iscrissi. Le batterie furono decise dall'insegnante che, visto che ad orso andavo forte, mi inserì nella gara dei più veloci. Ricordo che erano quasi tutti più grandi di me, tutti più grossi di me, ma soprattutto erano tutti nuotatori agonisti, mentre io, al di fuori delle ore di scuola, non frequentavo la piscina. Mi dissi, vabbè, farò del mio meglio e poi vada come vada. La mia gara era la gara clou, l'ultima della mattina. Gli spalti della piscina erano pieni di mamme, papà, nonni e così via. Le gare si susseguivano senza intoppi. Un bagnino dava lo start con una sirena. Lui suonava e la gara partiva. Facilissimo. Poi arriva la mia gara. Entro in acqua sapendo di essere l'agnello sacrificale, ma voglio vendere cara la pelle. Beep! Suona la sirena. Parto a razzo, spingo a più non posso, ma la sirena continua a suonare all'impazzata. Mi chiedo, cosa vorrà dire? Ma io continuo a tirare, come un dannato. La gente urla, mi domando, chissà cosa c'è. Al termine della prima vasca, un bagnino cerca di dirmi qualcosa, ma io devo tirare, non posso perdere tempo, sono lo sfavorito. Finalmente termino la gara, 50 metri. Mi alzo, mi guardo intorno e i miei avversari sono tutti attaccati al bordo della vasca, freschi, sereni, rilassati e sghignazzanti. Cos'è successo? Il direttore di gara si avvicina e mi chiede se sono sordo o cosa, se non ho sentito la sirena. Io dico di sì e lui mi chiede perché non mi sono fermato. Ma perché che vuol dire se risuona la sirena? Chiedo. Falsa partenza, è la secca risposta. Quando io ho fatto la batteria con tutti gli altri che erano dei nuotatori, sempre bambini, ma però che facevano le gare, questi hanno fatto una falsa partenza. Io nella mia ignoranza ho sentito la sirena che suonava, non sapevo cosa volesse dire e ho continuato a nuotare da solo per tutte le vasche, ho fatto 2 vasche da solo e sono arrivato mentre gli altri erano lì fermi che mi aspettavano. Ti diamo 10 minuti per riposarti, poi ripeteremo la gara, dice il direttore. Ma intanto tutte le mie cartucce le avevo già sparate e la figuraccia davanti a tutta la platea era fatta. Da quella lontana mattina ho realizzato che quella è sempre stata la mia posizione in tutti i campi della vita. O il primo degli ultimi o, nella migliore delle ipotesi, come quel giorno, l'ultimo dei primi. Mi ha fatto male realizzare tutto ciò, ma ancora più mi fa male rendermi conto che la colpa è solo mia. Faccio tutto bene e con applicazione, ma solo al 90%. L'ultimo 10% mi è sempre troppo gravoso. Hello, hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you might as well come in. We've been making beds for so long now. I never told you that I want you. I thought I had you out of my head. C'è praticamente tutto quello che ci ha raccontato nella foto che ci ha mandato Stefano e che trovate sul nostro sito, dove trovate anche il link per venire alla Pirelli il 25 di novembre, perché lui è sotto un tendone, ha i suoi 2 bambini in braccio, meglio uno in braccio e uno appoggiato alla moto da cross, che immagino sia la moto con cui lui fa delle gare o quantomeno dei giri in pista. Pronto Stefano, ciao! Ciao Matteo! Come stai? Bene, grazie, tu? Benone, dove ti trovi? Mi trovo in ospedale adesso, sto aspettando di andare in sala operatoria e intanto passo il tempo con voi. Esattamente che chirurgo sei? Io sono un chirurgo generale, mi occupo soprattutto di chirurgia addominale. Quindi tipo adesso cosa dovrei operare? Devo togliere una colecisti. Che è una cosa di routine? Sì, routinaria. Cioè, dimmi le 3 cose di routine che fai più di frequente. Colecisti? Colecisti, chirurgia dei laparoceli e ogni tanto qualche tiroide, ma soprattutto chirurgia addominale, facciamo molti colecisti, laparoceli e ogni tanto, quando ci capita, anche un po' di oncologia chirurgica. Io ti ringrazio Stefano per avere così stima e fiducia in me da pensare che io sappia che cos'è il laparoceli. Sono delle ernie della parete addominale. Ok. Su delle precedenti cicatrici chirurgiche. Ah, ok, perfetto. Faccio finta di aver capito di più, però sostanzialmente sono delle cose che si devono togliere, giusto? No, sono dei buchi da tappare. Ah, benissimo. Perché ho l'idea dei chirurghi, chiaramente è un'idea sbagliata, forse per avere degli amici o dei parenti lontani, per cui il chirurgo sostanzialmente toglie, cioè apre, no? E dice questo, via. Ed è la chirurgia più bella quella, perché quando non c'è da ricostruire si fa prima. Ah, certo, immagino. Com'è che hai deciso di fare questo mestiere, Stefano? Ma sinceramente mi sono iscritto a medicina perché era la facoltà dove c'era meno matematica, per la quale ero negato. Ok. Poi nel corso degli studi ho iniziato a frequentare le sale operatorie e mi sono innamorato della chirurgia. Quindi quanto tempo passi in sala operatoria in una giornata? In una giornata dipende dalle giornate, dalle 10 ore quando va male alle 6 ore quando è la sala operatoria rutinaria. E poi la smetto con le domande sulla chirurgia, però ne approfitto perché non mi capita spesso. È vero quella cosa che si dice dei chirurghi, che hanno una sorta di, o perlomeno che rischiano di avere una sorta di mania di onnipotenza, no? Nel senso che hai la sensazione di potere dare, togliere, di poter togliere e di dare la vita? Purtroppo è vero, ne conosco tanti che hanno questo problema, è vero. Ok, perfetto, così lapidario mi piace. Partiamo dalla foto invece, Stefano, che motocicletta, vabbè, che motocicletta usi, no, ma che cilindrata è? Fai delle gare? Allora, quella non è la mia moto, ma okay. È la moto del pilota di un mio amico, okay, che si chiama Nicolas, e quella foto l'abbiamo scattata a giugno al crossodomo di Carpi, e ho portato per le prime volte i miei bimbi a vedere le gare, e poi dopo gli ho comprato la moto da cross anche a loro. Ma piccolina? Certamente, per la loro stazza. Ok, ma tu fai gare? No, non ho mai fatto gare, sono sempre stato un grande appassionato, ho girato in pista, ho fatto diverse cose, ma non ho mai corso. Senti, invece la piscina, tu prima hai detto con una nonchalance incredibile, no, guarda, il nuoto mi annoia tantissimo, infatti quando vado in piscina entro, faccio 100 vasche e poi esco. È proprio così, siccome è una cosa noiosa, prima me la tolgo, meglio è. Sì, però tu parli di 100 vasche come se fossero 10, capito? Questo mi stupisce. Cioè che uno dice, ah guarda, mi annoio talmente tanto che non riesco a farne più di 5-6. 100 vasche, quanto ci metti a farle? Un'ora e mezza almeno? No, un'ora, ci impiego un'ora. Un'ora, di solito. Ok, benissimo, quindi fai... Sei sempre così determinato, Stefano, nelle cose che fai? No, sono un chirurgo, quindi ho le idee chiare. Ah, ok. Tra l'altro in questo momento io ti immagino col camice bianco. O sei già lì, o sei già lì con le mani alzate a dire guanti? No. Ho la divisa da sala operatoria e il camice sopra. Prima di salutarti e lasciarti andare ad operare, che c'è qualcuno che ha più bisogno di me, di te in questo momento, tu dici, diciamo, hai una presa di coscienza abbastanza... amara e realistica, no? Cioè tu dici, io ripensando a quell'episodio, a questo qua della falsa partenza, che è molto divertente perché tutti ce l'immaginiamo, oh guarda quello, e tu che continui a nuotare, e tu dici, io ho realizzato che quello è il mio posto nella vita, l'ultimo tra i primi o il primo tra gli ultimi. Mi spieghi meglio questa cosa? Ti faccio un esempio, all'università io mi sono laureato con 110 lode e in orai perfettamente nei in tempi tempo. Previsti. E ho sempre dato tutti gli esami con quelli che quando c'era da studiare un libro ne studiavano tre, io ne studiavo mezzo. Ciò nonostante riuscivo sempre a rimanere attaccato con i denti e con le unghie al treno dei veloci, però non ero veloce come loro, e così è sempre stato, hai capito? Io sono sempre stato là davanti nel gruppo di testa senza mai andare in testa, perché l'ultimo sforzo non me lo sono mai... concesso. Stefano, detto questo, insomma, dovessi avere bisogno di una laparo, com'è che si chiama? Devo fare una colecistectomia laparoscopica. Dopo, esatto, se avessi bisogno di una laparoscopica, cioè di colecistectomia, mi piacerebbe avere te sopra di me con dei ferri in mano. Grazie ancora Stefano, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie ovviamente. A te, Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao. Perché la piscina, no, tornando al racconto di Stefano, è da qualche generazione uno di quei luoghi che compongono la geografia di ogni bambino che sta crescendo, no? Cioè che tu viva al mare o in montagna, prima o poi il tuo corso in piscina ti tocca. Avevo 10 o 11 anni quando anch'io andavo in piscina. Forse perché quella è l'età in cui i genitori si guardano in faccia e dicono: ok, è ora che nostro figlio impari a nuotare. Andavo alla piscina di Vigevano con il pullman che partiva dalla piazza del mercato. Mi imbarazzava moltissimo spogliarmi e mettevo il costume già a casa sotto la tuta, anche se era scomodo e mi tirava così forte sull'inguine che mi lasciava due solchi. Non ricordo il nome dell'istruttore, ricordo solo che aveva i baffi e non aveva pietà, nessun tipo di pietà. Anche se ti vedeva annaspare a metà vasca e ti avvicinavi al bordo per respirare, lui non aveva pietà e... forse non lo faceva, però a me sembra proprio di ricordare che fosse pronto a pestarti le mani con le sue ciabattone di plastica blu se ti azzardavi ad aggrapparti al bordo per prendere fiato. Era lui che aveva messo in giro la voce che nell'acqua della piscina c'era una sostanza che se ci facevi la pipì dentro la colorava di rosso. Non è mai successo ovviamente, ma io me la sognavo di notte, quella chiazza rosso sangue. E tutti intorno a me, ad indicare che ero io l'assassino. Mentre quelli in acqua si allontanavano e quelli fuori mi deridevano. Lo stile libero mi veniva abbastanza bene, mi era venuto bene sin da subito. La rana invece così così, il dorso però quello lo odiavo. Non riuscivo a non bere ad ogni bracciata. L'acqua mi finiva inevitabilmente in bocca o nel naso, proprio mentre stavo inspirando. E proprio non capivo perché qualcuno avrebbe dovuto nuotare a pancia in su in quel modo così scomodo e innaturale. Quando ci facevamo la doccia dopo il nuoto, io mi insaponavo bene per strofinarmi dappertutto, ma non serviva a nulla. Quell'odore di cloro mi rimaneva addosso fino al giorno dopo. Lo sentivo la sera, prima di addormentarmi, salire dal caldo delle coperte rimboccate. Sono passati 28 anni e oggi lo sento ancora, quell'odore di cloro. L'ho sentito leggendo la storia di Stefano e della sua falsa partenza. Fate un respiro e ditemi se non lo sentite anche voi, l'odore di quei 10, 11, 13 anni, la paura dell'acqua alta e di quella vasca infinita che non finisce più. Anche voi siete lì e per pochi minuti anche voi state nuotando nell'acqua tiepida dei vostri 11 anni. E alla fine, dalla storia di Stefano, ho capito che primo, considerarsi l'agnello sacrificale di qualsiasi cosa non ti mette nelle migliori condizioni di operare. Secondo, ognuno deve gareggiare con quelli della propria categoria. Terzo, è vero, il nuoto è piuttosto noioso. Quarto, l'odore del cloro non va più via, mai. E quinto, se senti una sirena che suona e suona con insistenza, forse conviene darle ascolto. SMS di Massimo per chiudere. Quinta elementare, squadra B di basket della mia classe, quindi già quelli scarsi. L'allenatore mi mette all'inizio del secondo tempo. Al rimbalzo prendo la palla, parto solitario, sento tutti che urlano, tiro la palla e sbaglio. Mi volto mortificato e l'allenatore mi urla: abbiamo cambiato campo! Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Miriam Lucchetti. Io vi ricordo che ci vediamo il 25 di novembre in diretta dal vivo dal Pirelli Store di Milano. Per iscrivervi andate sul nostro sito e trovate tutto. Grazie soprattutto a Stefano, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Corrado, vivo a Brescia, la storia di domani è la mia e parla di un fatto successo a mio nonno nella prima guerra mondiale e di come me la raccontava quando ero bambino. Questa è la mia storia e io sono qui.